Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo ritornati noi di 451 Frammenti Sonori, dunque prima di tutto un saluto da Max Macchia. E ovviamente da Eliseo Scarpa. Buon Eliseo Scarpa. Ti sento un po' distante. Mi senti un po' distante, ecco. Perché sono come dire, ancora un po' marittimo. In realtà sono stato a mare fino all'altro giorno. Che mare? È un mare un po' strano, un mare brutto, un mare brutto. Sconosciuto, che insomma ho avuto modo di affrontare ultimamente. Oltre il Mar Nero, diciamo. Oltre il Mar Nero. Siamo andati verso il Mar Caspio. Di più, ma non vorrei non parlarne. Va bene, allora sorvolare perché lasciamo perdere allora questi viaggi che fa il buon Max, e ovviamente vi salutiamo al nostro rientro un po' tardivo per varie questioni che hanno proprio soprattutto, perché siamo tardivi noi in generale. Infatti, in generale siamo molto tardivi nella nostra vita, ma non siamo tardivi nel momento in cui dobbiamo iniziare, in termini proprio di spaccare il capello il secondo, e siamo rientrati perfettamente nei nostri ranghi, chiamiamoli così, ranghi un po' disastrati, ma ancora dentro dei ranghi, ecco, se siamo ancora non siamo andati completamente fuori, no, di testa, quasi, però ci stiamo provando, Piano piano è difficile, perché anche la normalizzazione porta a fare fatica a costruire un percorso deragliante. Uno sì, pensa soprattutto posta così, guarda. È vero. Va bene, dopo questo delirio iniziale, ovviamente 451 Frammenti Sonori ripartirà con i nostri tempi sempre molto veloci. Ovviamente sto scherzando sul nostro blog, che vi ricordiamo ancora è sempre lì presente, un po' inattivo da un po' di tempo, chiaramente dopo la pausa estiva. Anche noi eravamo inattivi. Infatti, 451 frammentisonori.noblogs.org, andate sopra. Sì, incredibile, mi è venuto in automatico, non ci ho neanche pensato. Non so se è da preoccuparsi, ma perché mi abbassi, non alzarmi troppo le alte, hai una voce meno rauca, ma il raffreddamento purtroppo di Bologna, questa bella città, ci porta anche queste conseguenze. Comunque siamo rientrati in diretta per la nuova stagione 2011-2012, e vedremo insomma se ne vedremo delle belle o delle brutte, o se voi ascolterete delle belle o delle brutte. Ovviamente stasera partiamo con un argomento che ha attraversato la discussione di molti media in questi ultimi mesi. No, sì, in effetti si tratta anche di una questione mediatica, però mi ricorda più i programmi dell'Accesso, Dipartimento Scuola Educazione degli anni 70. Giovani non si ricordano di sta roba. Insomma, esistevano, ma in realtà eravamo piccolissimi anche noi. Siamo dei vecchi, ci sono dei ventenni. Stiamo invecchiando anche male. Per colpa nostra. Negli anni 70 cosa succedeva? Succedeva qua in Italia. Succedeva che tante di quegli autori che poi sono diventati famosi con colonne sonore, famosi o perlomeno insomma conosciuti, soprattutto negli anni 90, recuperati attraverso anche un filtro che per certi versi non ha fatto chiarezza su figure complesse come quella di Piero Umiliani, come quella di Vittorio Gelmetti, come quella di Morricone, soprattutto musicisti che, oltre ad aver musicato in maniera anche leggera alcune cose poi diventate molto famose, citando insomma Emiliani, Mananana, Morricone, vabbè, che oramai, come dire, è musica popolare a tutti gli effetti. Oltre appunto a quei lavori che comunque niente tolgono alla grande qualità e alla grande dialettica anche tra avant, musica quindi d'avanguardia, sperimentale e pop, quella pop che interessava comunque a livello anche di linguaggio grandi sperimentatori, appunto come Morricone, che usciva, ricordiamo, da gruppo di Nuova Consonanza, facevano delle proprie vere commissioni, venivano date soprattutto dalla RAI, ma anche da settori culturali come musei, quindi musiche, sonorizzazioni, così sveliamo anche il titolo e il tema della trasmissione, che abbiamo comunque chiamato Atmosfere, musica per ambienti reali o immaginati. proprio perché molto spesso succedeva che ad esempio la RAI commissionava per un documentario su ad esempio la tecnologia e le scoperte scientifiche personaggi che tra l'altro immediatamente sentiremo come Gisto Macchi, anche lui di gruppo Nuova Consonanza insieme a Ennio Morricone, oppure chiedeva di sonorizzare un documentario non ancora girato, ad esempio sul mondo sottomarino o ad esempio sul cosmo, quindi le grandi profondità sia appunto terrene che extraterrene, appunto quelle cosmiche. Di conseguenza succedeva che appunto questi autori, liberi completamente di poter sperimentare anche in maniera piuttosto libera la propria creatività su dei temi molto vaghi, ma che comunque fortemente evocativi, appunto come il cosmo, come il mondo acquatico, come il mondo delle nuove tecnologie, addirittura dell'esoterismo, insomma veramente di tutto di più uscì all'epoca. Poi dopo troveremo anche cose molto curiose. Macchi, in questo caso Gisto Macchi, appunto di un gruppo di Nuova Consonanza tra le formazioni europee mondiali di impro radicale, di nuova contemporanea, che assolutamente stava solcando territori nuovi. E anche in questo caso, anche in solitaria, Gisto Macchi, poi sentiremo anche Unito Morricone, andavano a musicare Gisto Macchi con Futurissimo, e c'è già insomma un gioco di parole chiaramente con Movimento d'Avanguardia, musicava le scoperte scientifiche, la meccanizzazione, attraverso una cupezza e un tratto decisamente paranoide dentro appunto sperimentazioni di tipo elettroacustico, che hanno fatto poi di fatto scuola, se pensiamo a personaggi che dopo comunque ascolteremo, ma anche ad esempio a Certo, e qua veramente uno si potrebbe chiedere che diavolo stiamo dicendo, a Certo Metal Drone, e a certo modo di sonorizzare nuovo, se pensiamo ad esempio a Eternor, a certe atmosfere di Eternor, è inevitabile andare a ripescare non soltanto questo disco Futurissimo di Gisto Macchi, ma anche vari personaggi italiani che combinavano appunto queste atmosfere decisamente lucubri con sperimentazioni elettroacustiche veramente visionarie, e anche un senso appunto dronante decisamente nero che ha colpito sicuramente l'immaginario di Eternor, di Sannò e altri personaggi insomma di questi ultimi periodi. Andiamo quindi a trovare Gisto Macchi con Futurissimo dal 1971 e la tecnologia sonorizzata in questa maniera dal grande compositore. Thank you. Beh, come dicevamo prima, il grande compositore Ennio Morricone, in questo caso particolarmente sperimentale, ma non solo in questo caso, è una piccola digressione, è piuttosto, l'abbiamo detto più di una volta, è piuttosto scandaloso che non escano le cose sperimentali di Morricone, in nuova consonanza non vengono ristampate cose stupende, gregge, veramente di grande respiro mondiale, e soprattutto con questa grandissima anticipazione di quello che saranno anche sperimentazioni poi sul mondo della frequenzialità, su un'elettroacustica assolutamente illuminante per tante formazioni, wavers, post-wavers, isolazioniste, veramente insomma un mondo nero come quello che abbiamo di fronte in questo momento. Sì, con gli studi della radio che, come ci hanno spento la luce, si anneriscono, ci hanno abbandonate nel buio. Siamo insomma belli comunque anche dentro insomma questo nero profondo, anzi forse anche più ispirati, e appunto dal nero profondo di Controfase di Ennio Morricone, che appunto è una di quelle opere che magari bisognerebbe veramente riprendere, dove Morricone faceva una riflessione su la musica attraverso la musica, quindi le elaborazioni elettroniche, anche queste erano appunto sonorizzazioni commissionate per riflettere a livello documentaristico su le evoluzioni tecnologiche, in questo caso appunto quelle della musica registrata per nastri, che Morricone insomma conosceva decisamente bene, proveniente appunto da quegli ambienti dell'avanguardia romana, che può essere anche vicina a musica elettronica viva, e appunto prima anche Gisto Macchi, che elaborava anche lui un percorso piuttosto particolare su quello che è la riflessione tematica delle musiche sperimentali attraverso proprio le stesse linee e gli stessi linguaggi che appunto poi venivano esplorati. Da Morricone passiamo a un altro gigante della musica contemporanea, e non solo, estremamente aperto a composizioni raffinate e complesse, Vittorio Gelmetti, che abbiamo inserito come il buon Morricone in alcune occasioni di 451 frammenti sonori, lo ritroviamo e non a caso in questo contesto stasera dedicato appunto alle sonorizzazioni appunto sia reali che anche immaginate. Il lavoro da cui traiamo un brano, comunque una parte, una partizione della propria opera, è Musica Aleatoria Collage Memorie, che è un lavoro abbastanza interessante di Gelmetti, perché in realtà sonorizza le architetture sonore, o addirittura, se vogliamo essere più precisi, le macerie di queste architetture sonore che rappresentavano le sue composizioni del appunto il periodo post-elettronico. E dunque una sorta di visitazione e sonorizzazione del proprio percorso personale, musicale, sonoro, che ritroveremo poi, ma non anticipiamo niente, anche in un altro autore molto più vicino a noi in termini di tempo, di datazione. Questo è un lavoro ovviamente uscito tra gli anni 60 e 70, un'opera estremamente interessante, con delle sonorità e con delle frequenze sonore estremamente coinvolgenti, come sempre Gelmetti riusciva a fare nelle sue opere. Ricordiamo in particolar modo le sue collaborazioni proficue per molto tempo con il grande Michelangelo Antonioni. Gelmetti ha musicato molti lavori di Antonioni, ma anche di altri registi, ha anche fatto un lavoro abbastanza approfondito come sonorizzazione di documentari, di lavori anche per la Radio Televisione Italiana. È sempre stato attento comunque agli altri media, usiamo proprio questo termine, sì, media. In media. Effetti poi tutti questi grandi compositori di questa sera hanno proprio questa particolarità di essere attento proprio alla musica come media, come possibilità, insomma, come strumento per trattare anche quello che è oltre la musica stesso, e quindi anche ritrattare, riformulare lo stesso media, lo stesso linguaggio, può essere televisivo, può essere radiofonico. Ricordiamo che questa sera ci sarebbe stato anche bene addirittura la narrazione musicale di Berio Maderna per la città di Milano, ad esempio. Verissimo. Una sonorizzazione incredibile, meravigliosa. L'abbiamo inserita anni fa quel bellissimo lavoro. Forse l'abbiamo recuperato anche nel blog da qualche parte. Ci dovrebbe essere. Vabbè, comunque avremo tempo e occasione sicuramente di inserirli in altri contesti. Intanto godiamoci questo lavoro tratto da Musica Aleatoria College Memorie di Vittorio Gelmetti e poi a risentirci di nuovo su quelle frequenze che conoscete già, dato che siete qua. Thank you. Bene, siamo rientrati subito con uno stacco immediato dal brano che parte successivamente, molto differente, ovviamente sentirete la base ritmica piuttosto marcata e come vi avevamo preannunciato abbiamo collegato lo splendido lavoro di Vittorio Gelmetti con un autore, un musicista, un compositore molto più recente in termini di inizio di carriera musicale, cresce e diventa adulto tra gli anni 90 e gli anni 0. Parliamo di Scanner, che spesso è venuto anche a trovarci qua a Bologna, non a noi personalmente, no, però anche perché abbiamo provato anche a farci due chiacchiere, vero, ma era più interessato altro e faceva sì, bene, faceva bene, forse perché, insomma, si può anche poteva fare tutte e due le cose, ma forse, sì, eh. Diciamo che comunque Scanner è un personaggio, ecco, usciamone in questa maniera. Scanner che abbiamo inserito tante volte nelle vecchie soprattutto trasmissione, ma era un po' di tempo che mancava all'interno di 451 frammenti. Siamo molto legati. Siamo molto legati perché sicuramente ci ha accompagnato nel percorso di crescita, soprattutto sul piano elettronico negli anni 90, con degli splendidi album. Anche lui poi oltretutto è connesso al personaggio Antonioni per aver sonorizzato certi lavori, ovviamente post in maniera egregia, e questo disco l'abbiamo inserito collegato a Gelmetti per la vicinanza chiaramente anche alla questione di Michelangelo Antonioni, ma soprattutto per il fatto che anche Scanner fa un lavoro simile di sonorizzazione di quello che aveva fatto Gelmetti molti anni prima, cioè una sorta di sonorizzazione del proprio percorso musicale di 15 anni di opere musicali dello stesso Scanner, commissionato da Robin Rimbaud. Anche questo è un gioco, Robin Rimbaud è lo stesso Scanner, anche perché il personaggio si chiamava in vari modi, il suo nome appunto vero reale a Robin Rimbaud, che ha commissionato a Scanner la sorta di racconto di sonorizzazione del proprio percorso musicale in maniera ovviamente anche giocosa, ironica ed autironica. L'album è The Radiance of a Thousand Suns Burst del 2005 e abbiamo sentito appunto questo tappeto sonoro, questa sonorizzazione che ricorda molto certe scelte musicali e compositive dello stesso Scanner. Sotto sentiamo un'altra versione, l'album è molto variegato, molto bello, e racconta un po' forse anche le direzioni e i linguaggi che ha utilizzato Scanner in questi 15 anni di opera musicale. Molto bello anche il brano che sentiamo in sottofondo. E andiamo a presentare un personaggio che in realtà non è un personaggio, ma un progetto. È un progetto, ma poi, come dire, è animato, anche se è un gioco di parole, perché il nome del gruppo, la denominazione Death Ambient, però di fatto si parla di qualcosa di umano, di decisamente umano, anche se la parola svia la faccenda sul appunto ambiente morto, Death Ambient, perché sostanzialmente il progetto di Fred Frith, Ikuemori e Kato Hideki, tre grossissimi musicisti, soprattutto insomma la leggendaria Ikuemori da DNA e della no wave radicale della fine 70 americana newyorkese, a Fred Frith, Eric Howe, improvvisazioni radicali e quant'altro, insomma il mondo sempre variegatissimo e molto creativo di Fred Frith, e Kato Hideki, comunque interessantissimo bassista degli ultimi anni, un po' più giovane rispetto ai due grandi, insomma Mori e Fred Frith, e in sostanza umanizzano la musica colorandola appunto di sensazioni decisamente umane, come ad esempio Agony and Desire, che andremo a sentire tra poco, agonia e desiderio, ma perché no parlare anche del miraggio della memoria, Mirage of Memory, della sinestesia che tra l'altro dà anche il titolo a questo album gioiello, dove l'elettroacustica, soprattutto certi umori sia indagati e quindi sonorizzati e immaginati poi appunto attraverso il medium musicale, ma anche proprio le atmosfere ricordano tantissimo gli anni 70 italiani, dei grandi sonorizzatori prima ascoltati e che torneranno nella seconda parte, proprio per questa umoralità tra l'oscuro, il cupo, ma anche il decisamente affascinante, il bello nel vero senso della parola, c'è quella fascinazione che si ha per qualcosa che luccica anche, quindi in questo senso anche un gioco di contrasti tra Death Ambient e la morte, e poi invece una musica decisamente viva di umori. Ci andiamo ad ascoltare quindi Sinestesia a fine prima parte, poi torniamo per la seconda, sempre più belli che mai, tu Eliseo soprattutto. Thank you.